Cioè, sono stufo di fare dischi con la roba che è dozzinale. Io sono un artista. Allora devo dire devo dare contenuti come Vasco Rossi. Devo fare della musica per la gente che deve cantare ai miei concerti. E allora aspetta un attimo, aspetta che mi faccio una roba e aspetta che magari. Allora adesso ce l'ho in mente! So cosa devo fare! So cosa cantare! Disse la vacca al mulo! Disse la vacca al mulo! Oggi ti puzza il culo! Disse il mulo alla vacca! Ho appena fatto la cacca! Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza il culo. Disse il mulo alla vacca, ho appena fatto la cacca. Ho appena fatto la cacca, ho appena fatto la cacca. Ho appena fatto, ho appena fatto, ho appena fatto la cacca. Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza il culo. Disse il mulo alla vacca, ho appena fatto la cacca. Ho appena fatto la cacca, ho appena fatto la cacca. Ho appena fatto, ho appena fatto, ho appena fatto la cacca. Ti puzza il culo!